Bibbia Martini, primo libro delle cronache, 1 CR 11 Davide unto re. Discacciati gli Ebusei dalla cittadella di Sion, fa sua dimora in Gerusalemme circondato da fortissimi e valorosissimi soldati, dei quali si raccontano le imprese. Davide non vuol bere l'acqua desiderata, perché gli è portata a gran rischio da suoi campioni. Indi si raunò tutto Israele presso a David in Hebron, e gli dissero, «Noi siamo tue ossa, e tua carne. E anche per lo passato quando regnava Sol, eri tu, CNE conducevi in campo, e riconducevi a casa Israele, però che a te disse il Signore Dio tuo, tu pascerai il popolo mio di Israele, e sarai suo principe». Andarono adunque tutti i signori di Israele davanti al re in Hebron, e David fece con essi alleanza dinanzi al Signore, e lo unsero in re di Israele, secondo la parola detta dal Signore per bocca di Samuele. E Davide se ne andò con tutto Israele a Gerusalemme, questa è Jebus, dove erano gli Ebusei abitatori di quel paese. E questi abitanti di Jebus dissero a Davide, «Non entrerai qua dentro». Ma David prese la fortezza di Sion, che fu poi la città di David. Ora gli aveva detto, «Chi sarà il primo a vincere gli Ebusei? Egli sarà principe, e capitano». E Joab figliuolo di Sarvia salì il primo, e fu fatto principe. E Davide abitò nella fortezza, e perciò ella fu chiamata città di David, ed egli riedificò la città in tutto il suo giro da Mello sino all'altra estremità, e Joab rifabbricò il resto della città. E Davide andava facendo progressi, e prendeva vigore, e il Signor degli eserciti era con lui. Questi sono i principali tra gli uomini forti di David, i quali gli diedero aiuto, perché divenisse re di tutto Israele secondo la parola annunziata dal Signore ad Israele. E questo è il novero dei forti di Davide, Gesbam figliuolo di Acamoni capo di 30, egli imbrandì la lancia contro 300 persone, che egli ferì in una sola volta. E dopo di lui Eleazar figliuolo del suo zio paterno, Aoite, che era uno dei tre possenti. Questi si trovò con Davide a Fesdomim, quando i Filistei si raunarono colà per venire a battaglia, e i campi di quel paese erano tutti seminati di orzo, e il popolo aveva voltate le spalle a Filistei. Ma questi tennero fermo in mezzo ai campi, e li difesero, e avendo posti in rotta i Filistei, il Signore fece un beneficio grande al suo popolo. Questi tre dei 30 campioni andarono a quel masso, dove stava Davide presso alla caverna di Adullam, quando i Filistei avevano gli alloggiamenti nella valle di Rapem. E David era in quel suo posto, e una stazione di Filistei era in Betlehem. Davide adunque mostrando il suo desiderio, disse, «O chi mi desse dell'acqua della cisterna di Betlehem, che è vicino alla porta?» Allora questi tre passarono per mezzo al campo dei Filistei, e attinser l'acqua della cisterna di Betlehem, che era vicino alla porta, e la portarono a David, purché ne bevesse, ed egli non volle fare, ma la offerse al Signore, dicendo, «Lungi da me il far cosa tale nel cospetto del mio Dio, che io beva il sangue di uomini tali, i quali ponendo a risico la loro vita mi han portata questa acqua». Per questo egli non volle bere. Questa cosa fecero quei tre fortissimi uomini. Parimente Abisai fratello di Joab era il primo di un ternario. Egli pure combatté con la sua lancia 300 uomini, e li uccise, ed egli era famosissimo tra quei tre. E il più glorioso, e capo di quei tre secondi, ma egli non agguagliò i tre primi. Banaia di Cabsi il figliuolo di Ioiada uomo fortissimo, che aveva fatto molte imprese, egli uccise i due arieli di Mob, ed egli pure calò in una cisterna, e in mezzo ad essa uccise un leone in tempo di nevata. Egli pure uccise un egiziano di statura di 5 cubiti, che aveva una lancia simile a un subbio da tessitori, ed egli andò contro di lui con un bastone, e gli strappò di mano la lancia, e con questa sua lancia l'uccise. Queste cose fece Banaia figliuolo di Ioiada, il quale era il più famoso dei tre campioni, il primo di 30, ma non agguagliava i tre primi, e Davide lo fece suo confidente. Nell'esercito poi i più valorosi erano Asa il fratello di Joab, ed Elcanan figliuolo di suo zio paterno, che era di Betlehem. Sammot di Arori, Elles di Falon, Naira figliuolo di Acces di Tiequa, Abiezer di Anatot, Isobocai di Usat, Ilai di Ao, Imarai di Netofat. Eded figliuolo di Bana di Netofat, Ietai figliuolo di Ribai di Gabat della tribù di Beniamin, Banaia di Faraton, Iurai del torrente di Gas, Abiel di Arbat, Asmut di Bauram, Eliaba di Salabon. Dei figliuoli di Assem Gezzonita, Jonathan figliuolo di Sago di Arari, Iaiam figliuolo di Sakar di Arari, Elifal figliuolo di Ur, Aieper di Mekerat, Aia di Felon, Aiesro del Carmelo, Narai figliuolo di Asbai, Ijo il fratello di Nathan, Mibar figliuolo di Agarai, Iselec di Ammoni, Narai di Berot, scudiere di Joab figliuolo di Sarvia, Ira di Jeter, Org di Jeter, Uria Iteo, Zabad figliuolo di Oli, Gadina figliuolo di Zizza della tribù di Ruben, capo dei Rubeniti, e con lui altri. 30. Anan figliuolo di Maacia, e Josafat di Matana, Vozia di Astaroth, Samma, e Jeiel figliuoli di Otam di Arori, Igedi e il figliuolo di Samri, e Ioa suo fratello di Tosa. Eliei di Maumi, e Yeribai, e Josiah figliuoli di Elnaim, e Getma di Mob, Eliei, e Obed, e Jeziel di Masobia. Note, 11,12. Eleazar, figliuolo del suo zio paterno. Eleazaro figliuolo dello zio paterno del primo campione. Vedi 2. Regione 13. 9, 11,13. Questi si trovò ici. Dal capo 23 del libro secondo, del re si vede, che Semma figliuolo di Eige ebbe parte alla gloria di Eleazaro in quella occasione, e il versetto 14 dice in plurale, questi tennero fermo, ici 11,20, il primo di un ternario. Del ternario secondo, V21 11,22, i due arieti. Vedi 2. Reg 23:20. Ariel significa un gran lione. 11,43. Josafat di Matana. Questa città è nominata, numero 31. 18.